giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Cambiare le regole d'ingresso per i lavoratori stranieri per coprire le richieste delle aziende, a chiederlo Regione Confindustria Udine. A grado candidati oltre le aspettative per 40 posti stagionali nei servizi forniti dalla GIT, si presentano in quasi 250. Bene su contagi e posti letto, meno su vaccini ai bambini e ingressi in terapia intensiva, il rapporto GIMBE su regione ed emergenza Covid. Muore investita a Udine mentre fa jogging, vittima la 49enne Erika Niemitz, il conducente forse abbagliato dal sole. La legge Omnibus in Consiglio regionale e chiude la legislatura. Per la maggioranza interventi necessari, critica l'opposizione. 120 espositori alla Fiera dell'Acquacoltura a Pordenone. Il ministro Lollobrigida irresponsabile stigmatizzare vino e alimenti. Chi arbola irregolarità strutturali, il palazzetto dello sport di Trieste è inagibile, in difficoltà società sportive e associazioni. La sappadina Lisa Vittozzi, medaglia di bronzo ai mondiali di biathlon nella 15 chilometri, solo errore al poligono, oggi staffetta. 7:19 minuti di giovedì 16 febbraio. Buongiorno dalla Razzani e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo. Il cielo è da sereno a localmente variabile per nubi basse con foschie e locali banchi di nebbia in pianura. Le temperature alle 6 a Trieste 5,5 gradi, a Udine, Gorizia e Pordenone 0 gradi, a Forni di sopra 2 gradi, a Tolmezzo 1 grado. Sul Piancavallo meno 2, a Tarvisio meno 4 gradi, sul Monte Lussari 5 gradi positivi, sullo Zoncolan 4, a Lignano 3 gradi, a Grado 4. Le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso per velature, nel corso della giornata graduale aumento della nuvolosità specialmente dalla costa alle Prealpi, di primo mattino ancora in pianure nei fondivalle marcate inversioni termiche. Su coste e pianura pordenonese saranno possibili foschie o locali banchi di nebbia, più probabili dalla sera. Attrarre manodopera straniera specializzata per coprire le esigenze delle aziende che non riescono più a riempire le posizioni vacanti nella manifattura. L'ufficio studi di Confindustria Udine ha stimato che nel 2030 mancheranno all'appello ancora 22.000 residenti in età lavorativa e anche la regione chiede al governo di superare il sistema delle quote di ingressi. L'unica soluzione per risolvere nell'immediato il problema dei lavoratori introvabili è cambiare le regole dell'immigrazione. A dirlo sia gli industriali, sia l'assessore regionale al lavoro, Alessia Rosolen. Non ampliare, ma proprio superare il sistema delle quote d'ingresso degli stranieri, la sua richiesta al governo Meloni. Le fa eco quella della vicepresidente di Confindustria Udine, pratiche snelle per il permesso di lavoro, garantire alle imprese la possibilità, una volta trovato un lavoratore all'estero, di metterlo sotto contratto con rapidità. Anna Mareschi Danieli, vicepresidente di Confindustria Udine. L'immigrazione qualificata è l'unica soluzione del breve periodo che oggi ci permetterebbe di riguadagnare il vantaggio competitivo delle imprese italiane. Oggi non è una questione di accettazione, è una questione di sopravvivenza. In base ai titoli di studio, le maggiori difficoltà si riscontrano nel trovare chi è in possesso di diplomi professionali nel settore legno e impianti termoidraulici. Anche tra le piccole e medie imprese, la maggioranza, il Friuli Venezia Giulia è la regione che nel 2022 si è trovata più in difficoltà per mancanza di manodopera. L'allarme arriva anche da Confartigianato. Almeno 5 mesi per reperire un operaio specializzato, per altre figure è necessario anche un anno di ricerca. E nel 2030, stima l'ufficio studi di Confindustria Udine, mancheranno all'appello altri 22.000 residenti in età lavorativa. Oggi abbiamo un problema enorme, una persona su due non si trova. Pensate che solo nel 2017 eravamo a una persona su quattro, quindi significa che in maniera esponenziale questa problematica sta aumentando e sta diventando strutturale. Su richiesta delle imprese associate, Confindustria Udine ha varato e presentato una sezione del proprio sito dedicata a chi offre e cerca lavoro. Non è escluso che in futuro si possa condividere la banca dati con centri per l'impiego e agenzie regionali. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La società Grado Impianti Turistici, che gestisce la spiaggia principale dell'Isola del Sole, ha dedicato l'intera giornata di ieri al Recruiting Day. A fronte di un'offerta di 40 posti di lavoro, l'affluenza di candidati è andata ben al di là delle aspettative. Al Recruiting Day della JIT di Grado si sono presentate 245 persone per 40 posti stagionali, suddivisi in 9 professionalità: bagnini per la spiaggia, bagnini per il salvamento in mare, camerieri, baristi, receptionist, portieri in accoglienza, cuochi e aiuto cuochi, inservienti e addetti alle pulizie. Le retribuzioni lorde per il sesto livello, che corrisponde ad esempio agli addetti alle pulizie, sono 1.391 euro. Per il quinto livello, che può essere un barista o un receptionist, 1.471 euro. Per il quarto livello, come un cuoco o un bagnino di salvamento, 1.575 euro. Una giornata libera a settimana. Apertura dei bar da Pasqua in poi, sulla spiaggia invece dal 25 aprile. Si lavora fino a tutto agosto, con eventuali prolungamenti a settembre in base al meteo. Il presidente di Grado Impianti Turistici, Roberto Marin. Una grande partecipazione ha fatto tornare la JIT al centro dell'attenzione, ma soprattutto è diventata una società attrattiva per molti giovani che vanno alla ricerca di un posto di lavoro. Quest'anno troveranno dei grossi investimenti sulla spiaggia, non solo i caramelenti collaboratori ma anche gli ospiti, con oltre 1 milione di euro in attrezzature. Non ci dimentichiamo assolutamente, abbiamo ordinato le nuove cabine per le disabilità previste dalla normativa nazionale in materia. A coordinare il Recruiting Day la Regione Friuli Venezia Giulia, Elisa Marchino della Direzione Lavoro Servizi alle Imprese. Abbiamo informato i candidati che, qualora non venissero selezionati per questa opportunità, potranno trovare ulteriori offerte di lavoro attraverso i nostri canali regionali. 46 offerte da parte delle aziende sulla sola area di Grado, per un totale di 116 nell'intero ambito isontino. Grado, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Con 24 voti favorevoli, quelli della maggioranza di centrodestra, e 14 contrari, tutti quelli dell'opposizione, è stata approvata ieri sera in Consiglio regionale la legge Omnibus, l'ultima di questa legislatura. Tra le misure contenute, la possibilità di concedere contributi per il recupero del patrimonio edilizio esistente, di stipulare accordi con la società concessionaria della rete autostradale per possibili sconti sulle tariffe, sulla caccia, con la possibilità di operare anche in una seconda riserva, e poi ancora agricoltura, acquaponica e turismo, imprenditorialità femminile e disabili. Dalla prima legge approvata nel giugno del 2018, status economico e previdenziale dei consiglieri regionali, all'ultima, la Omnibus, sviluppo e crescita economica del territorio, 343 sedute dell'aula consigliare e 126 leggi approvate in 5 anni, alcuni dei numeri della 12ª legislatura, che si chiude appunto con il dibattito sulla proposta di legge 179 che divide l'aula. L'opposizione la definisce una norma calderone. Tiziano Centis, Gruppo Civica FVG. Tante manovre, tanti emendamenti ad personam, mi ritengo, per accontentare chi va accontentato, anche perché siamo 2 mesi dalla scadenza di questa legislatura, e quindi è una legge che porta gli interessi di pochi e tocca le criticità di tanti. Interventi mirati e necessari per il territorio, secondo la maggioranza. Claudio Giacomelli, Fratelli d'Italia. Dopo 5 anni emergono delle questioni da risolvere una alla volta, anche quelle che possono sembrare più piccole. Penso alla libertà che verrà data alle farmacie per gli orari, penso alle convenzioni tra Regione e Vigili del Fuoco, penso alle norme che miglioreranno negli appalti e combatteranno la differenza di genere, favorendo ad esempio l'inserimento delle donne. Ecco, poi se l'opposizione fa polemica, dico, è vero che è l'ultimo giorno di lavoro, ma proprio per questo è l'ultimo giorno in cui si deve lavorare. E dalla più importante azienda vitivinicola di Casarsa della Delizia la smentita su una presunta vendita annunciata in consiglio dagli esponenti del PD, Bolzonello e Marsilio. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alle 16 a Budoia salviamo la sanità pubblica, incontro organizzato dal gruppo consigliare regionale del Partito Democratico, con inizio alle 20:30 nella sala consigliare del comune, in piazza Umberto I. L'Assemblea dei soci di Autovie Venete ha deliberato ieri la riduzione volontaria del capitale sociale da 158 a 18 milioni. La procedura permetterà alla società autostradale Alto Adriatico il versamento dell'indennizzo di subentro ad Autovie Venete. Quindi la Newco potrà farsi carico dei lavori per il completamento della terza corsia sulla tratta A4 Venezia-Trieste, un passaggio strategico per il trasferimento l'aumento delle quote detenute da Friulia alla regione e poi all'Aniuco Alto Adriatico per rendere operativa la nuova società, ha detto l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli. Il cavalcavia della strada comunale tra San Mardenchio e Lumignacco è chiuso da ieri mattina dopo che un mezzo pesante che transitava lungo la sottostante autostrada A23 ha impattato contro il manufatto. Il mezzo trasportava una macchina operatrice superando i 4,40 m consentiti dal codice della strada. Il braccio della macchina ha urtato la struttura viaria. I tecnici di Autovie hanno proceduto già ieri alle prime verifiche. Le ispezioni hanno indotto alla chiusura precauzionale del cavalcavia fino ai risultati di ulteriori analisi. Il traffico è deviato verso Terenzano. Una gestione nel complesso positiva, quella messa in atto dalla Regione di fronte all'emergenza Covid. A dirlo il GIMBE, che ha però rilevato anche alcuni punti deboli. Identificazione dei contagi molto accurata, posti letto per malati di Covid-19 che sono sempre rimasti stabili, alto tasso di copertura vaccinale della popolazione, in particolare quella over 80. Sono stati questi i punti di forza della Regione Friuli Venezia Giulia nella gestione della pandemia di coronavirus. Ad affermarlo è la Fondazione GIMBE in un report commissionato dall'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute e presentato a Trieste alla presenza del Presidente e del Vicepresidente regionali Federica e Riccardi. Guardando poi al tasso standardizzato di mortalità, il Friuli Venezia Giulia si colloca sotto la media nazionale nel 2020 e nel 2022 e leggermente sopra nel 2021. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE. I numeri che andiamo a guardare grezzi sui tassi di mortalità della regione le assegnano, diciamo, una ingiustificata maglia nera, perché andandole a standardizzare poi per la popolazione residente, che è molto più anziana di quelle di altre regioni, questi tassi si ridimensionano molto, ma soprattutto la regione ne esce benissimo rispetto al concetto di eccesso di mortalità, cioè in questi anni quanti sono stati i decessi in più rispetto a quelli attesi, molti di meno di quello che sembrerebbe dal tasso grezzo di mortalità. Nella risposta alla pandemia non sono tuttavia mancate delle criticità, come il numero totale di contagi o il numero di ingressi in terapia intensiva superiore alla media nazionale. Resta qualche difficoltà anche nella campagna di vaccinazione. In regione, infatti, il numero di bambini tra i 5 e gli 11 anni con almeno una dose è minore della media nazionale, così come è più elevato quello degli adulti tra i 60 e i 79 anni che non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Secondo giorno a Pordenone per la fiera dedicata all'acquacoltura. Ieri all'inaugurazione il ministro Lollobrigida è intervenuto sulla controversa questione delle etichette europee su vino e alimenti. L'acquacoltura in Italia produce 180.000 tonnellate di prodotti ittici l'anno con un fatturato di 500 milioni di euro. Ma siccità e crisi energetica pesano sul settore, che punta su nuove tecnologie e sostenibilità. Se ne è parlato in fiera a Pordenone nel primo giorno di Aquafarm e Novel Farm, rassegne dedicate ad acquacoltura e vertical farming con 120 espositori. Presente il ministro dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, intervenuto anche sulla questione delle etichette sui prodotti alimentari, che servono, ha detto, più a condizionare che a informare, definendo irresponsabile il tentativo dell'Irlanda di stigmatizzare il vino. Il ministro ha anche parlato di interventi necessari per contrastare il problema della siccità con invasi e contenimento della dispersione idrica. Interessanti possibilità di risparmio di acqua arrivano anche dalle coltivazioni fuori suolo. Carlo Valsecchi, consulente del settore. Coltivare un fuorisuolo significa anche, proprio perché lavoriamo in un ambiente controllato, andare a ottimizzare, a risparmiare, a efficientare tutti i fattori necessari proprio della coltivazione. Quindi andare sicuramente a risparmiare parte dell'acqua. Simone Venturini, imprenditore del settore acquaponica. Oltre al normale, diciamo, recupero dell'acqua e la possibilità di produrre enormi quantità di pesce e piante in modo sostenibile, siamo riusciti a produrre anche energia elettrica ed energia termica. E dal settore ancora di nicchia delle microalghe si studiano le applicazioni nell'alimentazione umana e animale. Per l'associazione AISAM, Lisa Borella. Le microalghe crescono molto più velocemente rispetto alle piante e altri organismi fotosintetici e quindi il vantaggio è che loro potrebbero essere molto più sostenibili nell'ottica di sviluppi di cibi futuri. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un piano di partenariato pubblico-privato da 21 milioni di euro per i servizi energetici, termico ed elettrico degli edifici comunali di Trieste. Il piano si svilupperà sui 15 anni, ha spiegato ieri l'assessore Everest Bertoli, con la costruzione di 10 nuovi impianti fotovoltaici che raddoppieranno la potenza del comune. La sostituzione di oltre 20.000 lampade con altre a basso consumo e la messa a punto enorme di oltre 400 caldaie del comune, nonché l'isolamento di oltre 20.000 metri quadrati di tetti tra varie scuole e musei. Per il comune un risparmio quantificabile in circa 500.000 euro l'anno. Il piano partirà da luglio e ci vorranno 2 anni di lavori. Il valore dell'intervento globale è per 2.800.000 euro a carico del comune di Trieste, per i restanti 18 milioni da parte del privato. Oggi è il giorno di Millumino di meno, l'iniziativa in occasione della giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che Rai Radio 2 con il programma Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. Tra gli enti che aderiscono l'ARPA Friuli Venezia Giulia, che come segno concreto porta avanti da anni iniziative virtuose finalizzate al risparmio energetico, che coinvolgono sia le infrastrutture sia i suoi collaboratori. Dal 2012 a oggi i consumi di energia elettrica, per quanto riguarda ad esempio la sede principale di Palmanova, sono calati del 50%. Sono invece oltre 15.000 i megawatt risparmiati nel corso dell'anno appena concluso, corrispondenti al consumo medio di 7.000 famiglie, grazie alle azioni messe in campo da Cegas, APS, AMGA e Controllate, che per questa giornata ha voluto rendicontare il proprio impegno per un futuro sostenibile. Da tempo infatti l'azienda sceglie di utilizzare esclusivamente energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. A ciò si aggiungono le azioni di efficientamento energetico messe in campo nel 2022 presso le proprie sedi e impianti, portando a un risparmio complessivo di 418 megawattora, di cui 407 solo in Friuli Venezia Giulia. Fra le iniziative di adesione, il Circolo Legambiente di Udine APS organizza, in collaborazione con il ristorante Ai Nove Castelli di Faedis, Notte Veg, una cena vegetariana a lume di candele, dalle 20 in via Udine 63. Condividere le proprie idee all'interno di tavoli tematici e definire insieme una strategia intercomunale di sviluppo sostenibile è l'obiettivo di Percorsi di Sviluppo Bassa Orientale, un percorso di animazione locale rivolto ai cittadini dei comuni di Visco, Aiello, Campolongo, Tappogliano e San Vito al Torre, organizzato dalla cooperativa Cramars. 4 i tavoli di discussione dove i cittadini potranno intervenire con le proprie idee e proposte. Giovani, turismo e cultura, comunità energetiche e fonti rinnovabili, nuovi abitanti per i comuni, alle 20.30 nella sala civica di Aiello del Friuli. Passiamo alla pagina della cronaca con l'investimento mortale accaduto ieri mattina a Udine in zona stadio. Un forte impatto sulla parte anteriore destra di un SUV, probabilmente a causa del riverbero del sole, in quel momento ancora basso, che ha cercato il conducente. Questa una delle cause al vaglio della polizia stradale alla base del tragico incidente che ieri mattina è costato la vita a Erika Niemiz, 49enne di Udine, sposata e madre di un figlio, che stava attraversando via Floriano Candonio di fronte allo stadio Friuli in prossimità delle strisce pedonali. Le indagini sono ancora in corso e la dinamica del sinistro e al vaglio degli inquirenti. La donna è stata colpita dalla parte anteriore del SUV guidato da un 53enne che sopraggiungeva dalla tangenziale in direzione Udine Centro. È stata sbalzata sull'asfalto per una ventina di metri. A prestare i primi soccorsi lo stesso automobilista, che ha immediatamente chiamato i sanitari. Una volta sul posto l'equipe medica non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, che abitava non lontano dal luogo dell'investimento. Sulla scena dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del comando di Udine, la polizia municipale, la polizia di Stato e la polizia stradale. Inevitabili rallentamenti a causa della deviazione del traffico che è stato ripristinato intorno alle 10.30. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo le ispezioni, la chiusura a Trieste, inagibile la struttura sportiva di Chiarbola. Il cancello è sbarrato, qualcuno si avvicina e resta stupito dai cartelli appesi alle porte. Il palazzetto dello sport di Chiarbola a Trieste è chiuso, inagibile fino a data da definire. una struttura importante utilizzata da 14 società sportive e diverse altre associazioni del territorio. Dal pattinaggio al basket al pugilato, nelle palestre del complesso si svolgono anche le attività per gli anziani cardiopatici della Sweet Heart Dolce Cuore ODP. Bonifacio Domenico, presidente dell'associazione. Abbiamo circa un 120-130 presenze settimanali su 3 giorni della settimana per 5 corsi e quindi ci siamo trovati in grossa difficoltà, nel senso che, visto come ha avuto modo di vedere e toccare con mano, c'era qualcuno che non siamo riusciti a avvisare che è venuto qua per fare il corso di ginnastica. La decisione di chiudere la struttura è arrivata dopo le ispezioni svolte dai vigili del fuoco a fine gennaio, che hanno accertato irregolarità di natura strutturale, impiantistica, gestionale ai fini dell'emergenza e di utilizzo dell'impianto. Niente a che vedere, precisa l'assessore Elisa Lodi, con le infiltrazioni d'acqua segnalate dagli utenti. Il comune ha iniziato a lavorare per adempiere alle prescrizioni imposte dai vigili del fuoco, in attesa della riunione della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo convocata per il prossimo mercoledì. Difficile intanto trovare alternative alle spaziose palestre di Chiarbola, dove trasferire le attività. L'Associazione per lo Sport Inclusivo Calicanto, che ha la sua sede al Pala Chiarbola, ha ricevuto la comunicazione di dover spostare tutti i suoi strumenti, compresi i computer. Preoccupato il direttore sportivo della Pallamano Trieste, Giorgio Oveglia, che teme in particolare per il match contro la capoclassifica del girone, in programma il 25 febbraio. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Si parlerà di ricerca, prevenzione, psicologia e cure palliative nell'incontro UNITS contro il cancro, in programma dalle 14.30 nell'aula magna dell'edificio H3 dell'Università di Trieste e accessibile anche in streaming sul canale YouTube dell'Ateneo. L'incontro avrà come relatori medici e docenti universitari che spiegheranno quando, come, perché e cosa un malato oncologico può fare pre e post diagnosi. A introdurli Vanessa Nicolin, docente di anatomia umana all'Università degli Studi di Trieste, che ci ha anticipato alcuni temi. Si affronteranno diversi tipi di argomento. Nell'area della ricerca parleremo ad esempio di alcune promettenti terapie o appunto ricerche che vertono sul cancro, ad esempio la biopsia liquida. La biopsia liquida fa parte di tutte quelle, diciamo, sistemi di diagnostica della medicina di precisione che ha la finalità di seguire i tumori in modo non invasivo attraverso prelievi di sangue, urine o fluidi biologici. Parleremo anche degli avatar tumorali, che sono, diciamo, degli studi che ci permettono di verificare su organoidi tumorali dei modelli preclinici molto avanzati. E parleremo poi, infine, in quest'area, in tutti quelli che sono farmaci efficaci e sicuri, cioè tutta quella farmacologia oncologica che ci permette di utilizzare molecole che ambiscono a essere molecole target direttamente sul tumore, lasciando stare tutte quelle che sono le cellule normali. Così come peraltro anche parleremo del rilascio mirato dei farmaci antitumorali. Un altro degli aspetti che sarà affrontato è quello psicologico. Esattamente, sì. Infatti parleremo anche sia dell'aspetto psicologico sia delle cure palliative, perché entrambe le sfere riguardano i pazienti che hanno contratto questo tipo di patologia, che hanno bisogno di essere sostenuti dal punto di vista ovviamente psicologico, ma anche di essere accompagnati attraverso le cure palliative a quello che può essere un bisogno fisico, psicosociale, spirituale della persona. È morto Dario Penne, uno dei più grandi doppiatori italiani, nato a Trieste quasi 85 anni fa, ha prestato la sua voce tra i tantissimi personaggi famosi del cinema a Anthony Hopkins nel Silenzio degli Innocenti. Penne aveva debuttato in Rai con Ugo Amodeo, di cui fu allievo, ha preso parte come attore anche ad alcuni film, ma è stato molto attivo, soprattutto in televisione e ora lo sport, con la grande affermazione ieri di Lisa Vitozzi, che ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile ai mondiali di biathlon a Oberhof in Germania. Rimessasi dall'attacco influenzale che l'aveva fermata solo pochi giorni fa, la sappadina è giunta terza nella gara più lunga alle spalle delle svedesi Anna Öberg e Lynn Persson. Per l'azzurra, giunta al traguardo con 28 secondi di ritardo e un errore all'ultimo polizio, poligono nell'ultima serie in piedi. Quella di ieri è stata la seconda medaglia conquistata ai mondiali di Oberhof dopo l'argento della staffetta mista. Salgono così a 6 le sue medaglie iridate in carriera. Vittozzi ha lottato fino all'ultimo per conquistare il metallo più pregiato. Dopo 19 tiri andati a segno ha sbagliato purtroppo il colpo conclusivo che l'ha retrocessa al terzo posto. Oggi Vittozzi sarà impegnata nella staffetta mista in coppia con Tommaso Giacomel, gara che inizierà alle 15:10 con diretta su Rai Sport. Al via la 69esima edizione dello storico carnevale muggesano, di cui si ha notizia fin dal 1420, anno in cui se ne fa cenno nello statuto comunale. Ad aprire la settimana di festeggiamenti alle 17 il ballo della verdura, seguiranno l'arrivo di Re Carnevale, la consegna delle chiavi della città e il passaggio della corona di madrina. Ma la festa in piazza inizierà già prima, dalle 15 alle 16:45, con l'intrattenimento per bambini, dalle 18:30 bande nelle calli e nelle piazze e dalle 20 aperitivo in maschera con balli e musica revival 80 e 90. E dopo 2 anni di pausa forzata, Trieste è pronta ad ospitare la 29esima edizione del corso mascherato che assegnerà il Palio di Trieste detenuto da Roiano. Il carnevale prenderà ufficialmente il via senza la cerimonia di consegna delle chiavi della città, visto che dal 2020, ultima edizione, sono detenute dal re e dalla regina del carnevale del rione di Civitavecchia, che da allora sono ancora in carica. A Udine tutto pronto per il ritorno dopo la pandemia dei festeggiamenti per il carnevale organizzati in collaborazione con il comune. Si comincia oggi alle 15:30 in piazza Matteotti con lo spettacolo itinerante Un sorriso a carnevale, all'insegna dell'antica tradizione friulana. Spettacolo itinerante, già dalle 14:30 fino alle 18:00 sempre in piazza Matteotti, sarà inoltre presente il Truccabimbi. A Palmanova, in occasione del Giovedì Grasso, sotto la loggia della Gran Guardia, in piazza iniziative per le famiglie dalle 14 alle 18. Nell'ingresso del municipio la mostra fotografica di Chiara Rapretti, I colori dell'anima, martedì il veglione per celebrare il Martedì Grasso. Il 12° capitolo dell'Ulisse di Joyce torna in una riscrittura per voce, contrabbasso e live painting. A portarlo in scena in Ciclope, una produzione La Contrada, da una prima commissione del Museo Joyce Trieste, Riccardo Cepac, è Valentino Pagliei, autore dell'adattamento, regista e interprete, con proiezioni visioni della visual artist Goga Mason. L'appuntamento è stasera e domani alle ore 20:30 al Teatro dei Fabbri di Trieste per Ai Fabbri 2, la rassegna di teatro contemporaneo della Contrada. Al centro Bratusz di Gorizia alle 20:30, Adelaide Ristori, regina delle scene, produzione Hangar Teatri. Domani al Teatro San Giorgio di Udine alle 21. Gattamorta è il nuovo spettacolo di Francesca Reggiani al Teatro Miotto di Spilimbergo alle 20:45. Nella saletta dei Teatri per Tutti di via Selvatico a Pordenone, centro creativo della scuola sperimentale dell'attore, alle 20:30, l'anteprima di un nuovo lavoro della compagnia di casa, un omaggio a Dario Fo dal titolo Far Miracoli, con Jacopo Pittino nel ruolo del protagonista in questa particolare riduzione di Mistero Buffo affidata alla regia di Ferruccio. Ciao Merisi. Rinviato a data da destinarsi il concerto previsto al Teatro Bon di Colugna, il Carnevale degli Animali e la musica francese. Le conferenze, inizia al Museo Archeologico di Aquileia un nuovo ciclo di incontri collegati alla rassegna espositiva Mirabilia, capolavori a confronto, attualmente allestita nella sezione museale dedicata a lusso e bellezza. La conferenza alle 17:15 dal titolo L'Aquileia delle origini e la questione della provenienza dei primi coloni. Il ciclo prevede 4 appuntamenti dedicati ai rapporti tra Aquileia e la Magna Grecia. Il programma dei Giovedì Minervali, organizzato dalla Società di Minerva, continua con la serie di conferenze, a partecipazione libera ed entrata gratuita, dedicate a vari temi inerenti all'archeologia. Dopo il primo appuntamento, dedicato all'età del rame, e il secondo alla popolazione di Aquileia, oggi alle 16:45 alla Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste, si parlerà di culti romani e non in Istria. In occasione del Darwin Day, il Circolo War di Trieste Este, Unione Atei Agnostici Razionalisti, organizza due conferenze all'Antico Caffè San Marco alle 18, Transgender, Biologia e Identità di Genere, con Erika Scarel, vicepresidente, Euforia Trans Friuli Venezia Giulia, alle 19.30, Evoluzione, Fatti, Misfatti, Fake News, con il professore Massimo Avian dell'Università degli Studi di Trieste. Terzo appuntamento di Narratori d'Europa, ciclo promosso dall'IRSE, Istituto Regionale di Studi Europei, nell'Auditorium Lino Zanussi della Casa dello Studente di Pordenone. Alle 15.30 Isola, dell'autrice danese Siri Ranva Hjelm Jacobsen, sarà al centro della presentazione critica con approfondimenti multimediali e letture, a cura di Stefania Savocco. A Trieste, libreria Minerva, Andrea Mitri, ex giocatore della Triestina, presenta il suo libro di racconti Poco sesso, niente droga e qualche gol. Dialogherà con Mitri Giuliano Sadar, giornalista e scrittore. Incontro con Paolo Venti, autore delle Figlie dell'Orsa, alle 18 a Palazzo Gregoris, sede della Società Operaia, alle 18 a Pordenone. E proseguono le anteprime del Pordenone Docs Fest, via Argine 310, regia di Gianfranco Pannone, alle 20.45 a Cinema Zero. Il documentario è dedicato alla vicenda degli ex lavoratori Whirlpool, con voce narrante Alessandro Siani, presente il regista del film. Il Piccolo di Trieste apre sul tema della giustizia. Procura di Trieste bloccata dal reato di clandestinità, migliaia di fascicoli aperti e zero condanne eseguite. La denuncia del procuratore Antonio De Nicolo, che parla di uno spreco di risorse clamoroso. Di spalla alle notizie di cronaca, si parte dal Palachiarbola chiuso per intonaci pericolanti e scala non a norma, e si continua con il vertice in prefettura sulla sicurezza in porto, in arrivo misure più rigide. Infine la gestione della pandemia, con la Fondazione Gimbe che promuove la regione, ETS Trasporti che annuncia più corse dei bus in orario notturno. Di piede due notizie di cultura, vele delle battane tutelate in Croazia, la tradizione delle vele delle barche adriatiche diventa bene culturale tutelato da Zagabria, e poi l'addio a Dario Penne, la voce delle star. Emergenza sanità e Covid, le risposte della Regione, l'apertura del Messaggero Veneto sul rapporto Gimbe, tra i punti di forza i test, la qualità delle cure, l'organizzazione dei posti letto. Nella fotonotizia l'incidente costato la vita ieri a Erika Niemitz mentre faceva jogging. In taglio alto l'ultimo consiglio prima delle elezioni, Superbonus deciso l'acquisto dei crediti in un emendamento della Omnibus, accanto cantina di Casarsa, niente vendita ma patto con i veneti per una nuova società di distribuzione. Di spalla la morte di Monsignor Santa Rossa, cappellano militare, poi il tir che ha urtato il cavalcavia a Pozzuolo, il furto a Udine, scavalca l'incasso, ruba il portafoglio, puntava all'incasso del giorno della pasticceria di Viale Palmanova. In taglio basso poi il bronzo mondiale di Lisa Vittozzi. Travolta e uccisa mentre corre, l'apertura del Gazzettino inserto del Friuli. Il futuro, solo auto elettriche, spaventa 800 aziende, il titolo nella fotonotizia. Vaccini, Friuli, modello, pesano i sessantenni non immunizzati sul rapporto su Covid e regione. Di spalla la polemica sulle aree cimiteriali riservate agli islamici e il bilancio della giunta comunale a Udine. In taglio basso il basket, con il nuovo acquisto di Gesteco Cividale l'argentino Lucio Redivo. Nell'edizione di Gorizia del Piccolo si parla in apertura di sosta, così cambiano i parcheggi dell'ospedale. L'ospedale è San Polo di Monfalcone, dove ci saranno disco orario fino a 4 ore, posti riservati ai dipendenti, più stalli per i fragili. Le nuove regole a partire dal 1 marzo. Di spalla Gorizia torna ad attrarre residenti, qui si vive bene. Poi l'annuncio della riapertura della stazione di Mossa entro il 2026, il bilancio delle recruiting day alla chiamata della GIT rispondono in 250, ma pochi i gradesi. E infine l'inaugurazione della porta di Panzano a Monfalcone, si inaugura il museo del lavoro in cantiere. auto elettriche, tremano 800 aziende, l'Europa impone il blocco dei motori benzina e diesel, è l'apertura del Gazzettino di Pordenone. Nella fotonotizia una vignetta, due ministri in tre giorni, Ciriani e Lollobrigida, dalla città Fortino di Governo. Accanto raffica di incendi nel bosco, arrestato un cinquantenne di Sarone accusato di aver appiccato l'incendio, su cui ieri a Piancavallo è dovuto intervenire anche l'elicottero dal Veneto. In taglio basso allo sport, Tedino con il suo Trento pronto a fermare i ramarri. Anche sul Messaggero Veneto di Pordenone l'apertura è sul rapporto Gimbe sul Covid, mentre la fotonotizia è per l'addio a Monsignor Santa Rossa, storico cappellano militare. Di spalla esuberi Electrolux, ad aprile parte il piano di uscite volontarie, sotto l'arresto in flagranza per l'incendio a Piancavallo, e ad Azzano ascensore guasto da settembre in un condominio, ci sono disabili segregati in casa, è la denuncia. Continuiamo con altri appuntamenti al MIB Trieste School of Management, evento in memoria del professore Ermanno Pitacco. Alle 12 al Palazzo Ferdinandeo in Largo Caduti di Nassiria. Nell'occasione sarà intitolata al professor Pitacco l'aula del Master in Insurance and Risk Management e inaugurato il nuovo centro di ricerche assicurative a lui dedicato. Alle 10.30 ad Arta in Comune presentazione del progetto culturale Il Borg per il recupero del patrimonio storico culturale. E ora i programmi della sede Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Seguirà la rubrica in friulano Vueo Fevelin D alle 11.19, anziani anzi no alle 11.55, né stato né mercato. I programmi tornano poi alle 13.29. In regia Paolo Cassano e Riccardo Stoici. In redazione ha collaborato Manuel Bussani, dalla Razzani e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.